Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sorpassi, controsorpassi, insomma non sono certamente le emozioni a mancare in una classifica splendidamente corta in un campionato molto divertente, poi sulla qualità assoluta si può discutere, anzi si dovrebbe cominciare davvero a discutere, ma l'importante è che i campionati siano emozionanti più ancora che qualitativamente validi. Non mancano naturalmente gli errori arbitrali, non mancano le grandi giocate. Pensate soltanto alle punizioni del Piero e di Zarate, alla splendida regia di D'Agostino a San Siro, per esempio. Ci sono molti numeri significativi, per esempio questo è di Del Piero l'anno migliore della sua carriera, lo ha ammesso lui, per la verità ha detto che questa è stata la settimana migliore della sua carriera, però i numeri dicono che anche l'anno solare è migliore. Perché è il 25esimo gol del 2008, l'anno solare. Il Corriere dello Sport ha fatto questo calcolo statistico, segnalando i 250 gol con la Juventus, di cui 158 in Serie A, 250, numero tondo raggiunto ieri. Sono 6 vittorie consecutive della Juventus in campionato, 6 su 6 in casa del Genoa, come nell'anno 32-33, pensate di quanto bisogna tornare indietro. Sono 8 vittorie consecutive del Napoli al San Paolo, tra questa era stagione precedente, e se vogliamo metterla ancora su numeri direi ancora più significativi per quanto attiene alla classifica, ci sono i miglioramenti e i peggioramenti in classifica rispetto alla scorsa stagione. Classifica cappeggiata nettamente dalla Lazio, che è a più 12 punti in più dello scorso anno, 9 punti in più per il Milan, 8 per il Napoli, 6 per il Genoa, 4 Catania, eccetera eccetera, mentre la classifica alla rovescia è non cappeggiata, è stradominata dalla Roma, che ha la bellezza di 14 punti in meno rispetto a un anno fa, potevano essere 12 senza la prodezza di Sissinio, che ha ricordato autoriti storiche della storia del pallone. Questi sono alcuni dei numeri, gli argomenti sono, alcuni li ho accennati, ma ce ne sono a bizzeffe dopo un fine settimana così divertente, emozionante e chiacchierato, indiscutibilmente chiacchierato. I vostri interventi, come sempre, all'800240024, ho selezionato qualche mail ricevuta in nottata e in mattinata, che poi vi leggerò, fioccano già i messaggi. E quindi ascoltiamo come ogni lunedì qualche voce mentre voi vi prenotate, ripeto, all'800240024 come ogni lunedì. Cominciamo dal posticipo e quindi dalla voce di Carlo Ancelotti. Sì, è stata la miglior prestazione che abbiamo fatto, penso anche tra tutte, anche quelle in casa. Abbiamo giocato molto bene, creando tante opportunità, giocando in maniera fluida, molto equilibrati, nonostante abbiamo spinto tanto. Credo che è stata la miglior partita. È un fallo che fischiano solo in Italia, lo fischiano solo qua. Gli arbitri purtroppo in Italia fischiano troppo. Credo che la partita era vinta da questo punto di vista per quello che avevamo fatto. Poi non credo che nel finale c'è stata neanche disattenzione, è stata una disattenzione più arbitrale che nostra, diciamo. Strano, Ancelotti. Beh, strano perché in genere è molto più signore di così, e soprattutto è molto meno gratuito, nel senso che quel fallo finale da cui nasce la punizione si può fischiare e non fischiare. Probabilmente ha ragione che all'estero non si fischia, ma è anche vero che si tratta di mettere giù una palla frontale a 40 metri alla porta. È un po' difficile stabilire il rapporto di causa effetto, no? Su una cosa del genere. Stamattina gli ha risposto Collina, non direttamente, però è intervenuto ai microfoni di Radio 1 e ha parlato di alcuni aspetti. Per esempio, rispondendo appunto ad Ancelotti, ha detto Collina: non è vero che in Italia si fischia troppo, tant'è vero che ieri in Lecce e Milan sono stati sanzionati 28 falli, che sono completamente nella media europea, anche se il modo di giocare in Italia è molto diverso. Poi ha parlato di altri argomenti e qui mi è sembrato un tantinello più in difficoltà, insomma. Mi piacerebbe, ha aggiunto, che si parlasse solo di errori senza pensare che ci debba essere dietro qualcosa. Speriamo che non ci sia davvero dietro niente, ma insomma i continui sconti disciplinari che vengono fatti a giocatori che in linea di massimo per il 90% appartengono a squadre di grande blasone, qualche perplessità mano a mano che passano le domeniche, qualche perplessità crescente non possono non suscitarla. Andiamo avanti con i commenti. Sentiamo quella di quello di Beretta, per esempio, che ha nettamente subito il Milan. Ha detto bene Ancelotti, la miglior partita del Milan quest'anno, ma per i paradossi del calcio è arrivato soltanto un pareggio. Chiaro che è stata una partita di grande sofferenza, è normale contro il Milan, contro questa squadra che ha grandi campioni, un possesso di palla straordinario, non è facile. Insomma, noi abbiamo cercato di contrastare il Milan con le nostre armi, purtroppo ci siamo riusciti in alcune frangenti della partita, in altri no, però siamo stati anche capaci di soffrire in certi momenti, pur sapendo che, come dicevo prima, che incontravamo una grande squadra. Però abbiamo avuto una reazione importante dopo il gol. Dopo il gol che abbiamo preso, insomma, la squadra ha cercato, tra l'altro eravamo praticamente in 10 perché Cacci aveva male, quindi siamo riusciti lo stesso a cercare di andare a recuperare lo svantaggio e ce l'abbiamo fatta. E questo era il commento di Beretta a questo pareggio insperato, certamente raggiunto da Lecce quando la partita sembrava davvero finita. Andiamo avanti con i commenti, lasciando stare per il momento le polemiche. Il commento alla partita che ha riportato l'Inter in testa alla classifica, in maniera abbastanza inopinata per la verità, per quello che è successo sia a San Siro che poi in serata a Lecce, il commento di Mourinho. Udinese per me è una bella squadra, ma oggi penso che l'Inter, senza fare una partita super, perlomeno sul punto di vista difensivo, l'Inter ha giocato veramente bene. E l'Udinese, che è una squadra molto molto pericolosa, mi ricordo, chissà c'è qualcuno in più, ma mi ricordo semplicemente di una palla gol per loro. Noi abbiamo giocato molto bene difensivamente e loro, con tre giocatori di attacco di grandissima qualità, di grande velocità, praticamente senza pericolo. Fatica per noi di segnare, ovviamente sì, una squadra che segna minuto 91 o 92 è ovviamente una squadra che ha fatto fatica a segnare. Ma la partita finisce quando finisce, l'ultimo minuto si perde, l'ultimo minuto si vince, e la mia squadra ha dimostrato una voglia molto grande, un carattere molto importante, un sentimento di tutti insieme fino all'ultimo secondo della partita. E una squadra che nelle ultime tre partite vince a Regina ultimo minuto, vince oggi ultimo minuto, gli pareggia a Cipro anche contro una squadra fragile, che non è della stessa qualità che una squadra di Serie A italiana, ma anche in questa partita abbiamo segnato negli ultimi 10 minuti. Questo per me è molto importante, perché dimostra che la squadra vuoi, e quando vuoi non è un problema. Ma come sempre, le cose, le situazioni, i numeri si possono leggere in una chiave o nell'altra. Insomma, un'altra chiave rispetto a quella di Mourinho potrebbe essere che ridursi a pareggiare in extremis a Reggio Calabria, vincere, pareggiare a stento a Cipro e poi ieri al 91esimo e 13 vincere una partita non poi così meritata, direi. Come ho sentito anche Mourinho dire che l'Inter è stato ineccepibile dal punto di vista difensivo, da un certo punto della partita in poi sì, nella prima mezz'ora mi è sembrato che il miglior difensore dell'Inter fosse Coppelli, l'assistente di destra, che ha fermato due volte due contropiedi all'Udinese di quelli che sembravano, come dire, abbastanza ben avviati, per non parlare poi dell'entrata di Cordoba alla fine. Io credo che questo è un discorso arbitrale che facciamo magari più avanti poi con i vostri interventi. Temo sia inevitabile parlare di Cordoba, di Sissoko e di altre nefandezze arbitrali viste ieri. Sentiamo come l'ha vista Marino in compenso la partita di San Siro. Sono contento della prestazione, perché non c'era abbiamo disputato una buona partita. Credo che perdere alla fine lascia un po' di amarezza, però ci consente anche di pensare al futuro in maniera positiva, ecco, perché contro una squadra che deve necessariamente puntare a vincere lo scudetto, noi abbiamo cercato di difenderci con ordine, abbiamo concesso non tanto occasione agli avversari, abbiamo cercato di pungere ripartendo spesso, e quindi abbiamo creato anche noi qualche pericolo. Ma noi sappiamo ripartire, sappiamo anche giocare. Quando abbiamo la palla spesso non la buttiamo e cerchiamo il fraseggio, quindi non sappiamo solo giocare di rimessa, quindi, per chi ha visto tutte le nostre partite, per cui anche oggi sicuramente in certe frangenti magari siamo stati costretti dagli avversari sulla difensiva, però senza mai concedere tantissimo, ecco. In dal punto di vista di occasioni limpide. Sono contento della prestazione complessiva, è chiaro che nell'azione del gol c'è stata più di una disattenzione, visto che noi in area marchiamo a uomo e ce n'erano più di uno libero, significa che abbiamo commesso qualche errore. Tre errori almeno, perché c'erano tre giocatori liberi esattamente davanti alla porta. Errore di marcatura, errore per il mio anche di mancata uscita del portiere, perché questi tre hanno tirato a sorte su chi doveva abbassarsi e colpire di testa in piena area piccola. Credo, con tutta la stima per Handanovic, che è un signor portiere e che ha un eccellente rendimento quest'anno. Così, preventivamente, prima che si scatenino poi discussioni sulle consuete discussioni sulla moviola e sulla sua obbligatorietà in campo, scrive Roberto un messaggio molto divertente. Sabato sera su Rai 2, alla moviola, il gol del Torino di Amorusa era in fuorigioco. Ieri, al 90° minuto, era già diventato regolare. Cosa facciamo? Mettiamo la moviola della moviola, questo mi sembra splendido. Ma infatti, io vorrei sapere, per i Marson, sono domande che ormai, per la verità, ho smesso di farmi, ogni tanto riaffiorano, riemergono. Come si potrebbe ripartire quando c'è un fuorigioco che non è fuorigioco o viceversa, cioè da dove ripartirebbe l'azione? Ieri ci sono stati parecchi errori di assistenti, ma a parer mio quelli non sono rimediabili e soprattutto mi paiono errori comprensibili, perché su un incrocio, un vecchissimo discorso di uno che scatta in avanti e dell'altro che parte in direzione opposta, è abbastanza facile sbagliarsi. Semmai bisognerebbe dar retta alle direttive che arrivano e che Collina ricorda sempre, che sono direttive FIFA e UEFA, e cioè che nel dubbio ci si astiene, nel dubbio non si alza la bandiera. Ieri invece è stata colpevolmente alzata in qualche occasione in cui non doveva, per esempio sul pareggio di Cassano a Napoli, che era certamente regolare, ma non sono quelli gli errori gravi, perché lì in una frazione di secondo un assistente è chiamato a giudicare. Gli errori gravi sono quando sei a campo libero e devi valutare la gravità di un intervento di un intervento a campo aperto, e la gravità di un intervento di gioco violento, come se ne sono visti ieri e se ne erano visti prima. Quelli sono veramente un po' più difficili da ammettere. Sentiamo Franco dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno, signor Carantini. Io ho sentito su una radio concorrente alla vostra questa mattina, in merito al rigore dato o non dato a favore della Juventus contro la Juventus, non voglio fare discussioni se avevano ragione oppure no. Mi ricordo che anni fa Sivori, quando lavorava alla Domenica Sportiva, aveva detto che se il pallone fosse una lama rotante, il 90% dei falli di mano non ci sarebbero stati. E mi ha fatto un po' senso, mi ha fatto un po' pensare sulle involontarietà dei falli di mano in aria. Ecco, questo è tutto. Sì, era bella quell'immagine di Sivori. Ieri diciamo però che sulla volontarietà e involontarietà ne hanno combinate tante a Verona e non solo a Verona. È un altro dei capitoli spiacevoli, insomma, di questa post giornata, perché in effetti ieri, ma soprattutto la sensazione sgradevole è che ogni tanto si ricominci a valutare tenendo conto del colore delle maglie, e questo sinceramente mi sembra un tantinello fastidioso. Forse anche forse meno sui falli di mano, ma certamente sui falli cattivi, che poi determinano con mancate espulsioni. È chiaro che cambiano i rapporti di forze in campo, perché altro è restare in 11 quando si dovrebbe invece giocare il resto della partita in 10. Torniamo in vostra compagnia con alcuni commenti ancora da ascoltare per meglio inquadrare il riassunto di questa domenica. E allora sentiamo, dopo la sesta vittoria consecutiva della Juventus, l'opinione di Ranieri. La chiave del successo dell'anno scorso è la chiave del successo di adesso, di queste sei partite. La squadra sta bene fisicamente, si ritrova, i ragazzi hanno voglia di lottare, di ritrovarsi, per cui è logico che poi all'interno della squadra c'è il campione che deve venire fuori. E in questo momento Alex è magico, è il capitano, non solo il capitano, è il leader, per cui si sta caricando, si è caricato la Juventus in questo momento difficile e tutti gli sono andati dietro, per cui gli sono riconoscenti, perché è un giocatore che fa 4 gol al Real Madrid e quando c'è una minima opportunità fa gol, e questo fa bene, dà morale. L'ho detto, dopo il Real Madrid vediamo come reagiamo, deve essere una vitamina positiva e non dobbiamo ubriacarci perché abbiamo fatto bene lì al Bernabeu. Ubriacarci no, ma insomma, tranne una spinta positiva mi sembra di sì. Questo è accaduto, la Juventus andrà, la Juventus è rientrata in gruppo intanto, è a 21 in classifica, sembrava che il suo campionato fosse finito, invece è ricominciato a pieno titolo, anche se c'è ancora qualche punto da recuperare a Inter, Milan, a Napoli, c'è l'Udinese con cui fare i conti, con la personalità vista ieri, c'è questo Genoa che non finisce di stupire, c'è questo stranissimo anticipo al giovedì, Juventus-Genoa, partita clou del prossimo turno, che viene giocata, non udite bene, non domenica sera, non domenica pomeriggio, non sabato sera, non sabato pomeriggio, ma giovedì sera. Credo che i più documentati di voi lo sapessero, chi invece stesse cadendo alle nuvole sappia che domenica sera all'Olimpico di Torino, anzi domenica pomeriggio all'Olimpico di Torino, si gioca Italia-Argentina di rugby, e per questo, visto che nel gioco degli anticipi del sabato non è stato evidentemente possibile inserire Juventus-Genoa, oppure per carità magari c'era il timore di rovinare il campo per il rugby, morale, giocano Juventus-Genoa, partita clou, ripeto, della prossima giornata, il giovedì sera. Abbiamo sentito Ranieri, ascoltiamo Dario, chiamato dalla provincia di Belluno. Buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Niente, io volevo soltanto condividere con lei un'idea, io sono milanista, premetto questo, condividere con lei un'idea per quanto riguarda Ancelotti, nel senso che ultimamente mi sembra stia uscendo un po' dai ranghi suoi soliti, come commenti, dico, le post partita, e poi io avrei fatto piuttosto un'autocritica costruttiva, nel senso che l'azione del pareggio del Lecce è nata da un rilancio, penso di Zambrotta, non mi ricordo più di preciso, di 40 metri che è andato a finire tranquillamente sulle braccia, quindi a campo vuoto, è una squadra che si reputa avere buona tecnica e più di buoni, al 91esimo non dovrebbe fare una cosa del genere. E poi soprattutto l'azione che ha portato al fallo, da cui poi è partita la punizione, cioè secondo me è l'atteggiamento di Emerson e Kakà in pressione sul giocatore di spalle a 30 metri dalla porta, che ha indotto l'arbitro magari a cadere nel tranello che, certo, del giocatore. Quindi io avrei fatto piuttosto autocritica sull'ingenuità di questi due giocatori in pressing in quella zona del campo. Sono... Io ho giocato a livelli dilettantistici, però, per carità, però. Ma lì non si interviene. Non si interviene. Ma certo. Si tiene il giocatore di spalle. Si capisce. Finché è voltato verso la sua metà campo e non fa danno. Certo. Il danno se l'è fatto il Milan, perché in difesa poi sulle palle alte sappiamo bene che soffre. Quindi... Esattamente. Ecco, e poi io vorrei eventualmente tamponare chi dovesse intervenire in futuro sull'azione dell'eventuale rigore a Bonera. Io direi che l'azione è viziata da un fallo di Boriello che tira per la maglia il difensore del Lecce, che poi fa la deviazione determinante che porta la palla verso Bonera, quindi secondo me non si può parlare neanche di rigore, perché prima c'è il fallo di Boriello. Ma infatti io credo che lì chi ne ha parlato, insomma, siano stati alcuni organ house oppure comunque qualcuno che ha voluto tirare una situazione davvero per i capelli. Invece è molto interessante, è molto dotto il suo, la sua controriduzione rispetto alla protesta di Ancelotti. Perché? Perché così, perché in effetti lì non si entra e basta, non c'è nessun bisogno di scalzargliela via quella palla, come ha provato a fare Emerson, basta. Poi con un raddoppio tra l'altro di un altro giocatore, basta lasciarlo rigirato, danni non ne può fare. Massimiliano, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, salve, buon pomeriggio a tutti quanti. Ascolti, io volevo fare un'autocritica praticamente al Milan, sono milanista anch'io. Un'autocritica al Milan non è male, dica. Che praticamente abbiamo problema di fare gol con le nostre punte, Girardino qualche anno fa, adesso va via, torna a Firenze e fa gol. Borriello l'anno scorso capocannoniere, viene al Milan e non segna. È un problema comunque di modulo del Milan, che Ancelotti secondo me, anche a continuare a buttare dentro punte come fa lui, Pompato, Shevchenko, ieri Ronaldinho e tutto quanto, secondo me non è un buon metodo di gioco che sta facendo il Milan. E infatti i gol non vengono comunque. Sì, dire che Ancelotti abbia bocca nelle scelte del Milan, insomma, nelle scelte di mercato, non parlo di gestione della gara, diventa sempre più difficile, insomma. Però è indubbio che quello che dice lei, Girardino, mica Girardino, cioè è come se nessuno... Io credo, guardi, questo, che... naturalmente i tifosi del Genoa mi malediranno, ma come esorcismo, ma se anziché prendere il Milan il centravanti del Genoa dello scorso anno avesse preso il centravanti del Genoa di quest'anno, e cioè il Principe Milito, io credo che tutti questi discorsi non li faremmo, perché al Milan manca un uomo vero d'area di rigore, che sia in grado di giocare a pallone prima e che sia fortissimo lì dentro o negli immediati paraggi, e che abbia una personalità più affermata rispetto a quella che aveva Girardino. Detto questo, forse vale la pena, dato che il gioco del Milan per l'appunto è un gioco avvolgente che non è semplice da mandare a memoria per chi deve fare il riferimento avanzato. A me pare che Boriello da quel punto di vista abbia fatto miglioramenti notevoli partita per partita, e anche ieri sera lo si è visto. Poi se gli capita la serata in cui ne azzecca veramente così poche, anzi ne sbaglia così tante, e riesce ad alzare da un metro dalla linea un pallone che io ricordo soltanto Calloni una volta aver sbagliato un gol così con la maglia del Milan, beh, allora è ovvio che diventa più difficile, ma non incide però sulla prestazione e sulla maturazione, secondo me, del giocatore. Giorgio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, dica. Dottor Garanzini. Volevo fare una domanda sul rientro futuro di Trezeguet. Sì. Secondo lei potrebbe portare problemi a livello di gestione dello spogliatoio con un Del Piero così in forma e una Mauri che secondo me è inamovibile dalla formazione juventina? Ma Giorgio, io non... Sì, problemi ambientali qualcosina sì, ma non solo in quel caso, cioè in qualunque caso. Quando un giocatore sta fuori per moltissimo tempo e ce ne sono altri che fanno bene o benissimo al posto suo, in qualsiasi squadra, il momento del rientro dell'uno e del riaccantonamento di un altro eventuale, comunque... Qualche problema lo crea. Questo è sempre accaduto, a maggior ragione oggi, in cui non c'è più un rincalzo in attacco, ce ne sono almeno tre quando va bene, se non di più come in qualche caso. Credo però anche che un Trezeguet che arrivasse fresco, cioè che arriverà fresco più o meno all'inizio della primavera, insomma, o poco prima, e andrà in condizione seria in primavera con la Juve che è partita un mese prima delle altre, potrebbe essere invece un toccasana, potrebbe. Provincia di Bergamo, Angelo, buongiorno. Buongiorno, grazie che mi ha chiamato. Dunque, io non voglio fare il tecnico perché non sono un tecnico, però sentendo ieri sera questi giornalisti che fanno delle domande, anche se Mourinho è simpatico, fare sempre i paragoni con uno o con l'altro non è che sia molto corretto, e giustamente se poi dopo lui si arrabbia i giornalisti sono lì subito pronto a sparargli addosso. E poi anche quella frase che ha detto Ancelotti non mi sembra che sia la sua parte molto molto seria, perché il Lecce non ha giocato male. Se poi dicono che meritava il Milan, vabbè, a Reggio Calabria dovevano espellere un giocatore, non l'hanno fatto un vinto partita, quel giocatore lì domenica dopo non doveva esserci e hanno vinto un'altra partita. Perciò a fine campionato le cose che ti dongono ci fai il conto ripari. Questa è una vecchia favola che era molto cara a Luciano Moggi. Grazie anche del suo intervento. Torniamo in onda 14:34. Anche l'ANSA si è messa a far di conto e ha scoperto, leggo da un'agenzia appena uscita, che da quando esistono i tre punti per vittoria, ovvero dalla stagione 94-95, mai prima di adesso la classifica era stata così corta in testa. Dall'Inter che è prima con 24 punti al settimo posto ex aequo di Fiorentina e Genoa a quota 20, ci sono 8 formazioni racchiuse in 4 punti. Bellissimo. Poi ripeto, qualitativamente ne riparleremo magari, ma quantitativamente, quindi come spettacolarità, nel senso dell'alternanza e delle sorprese, Andrea da Bologna per esempio domanda: ma tra le sorprese attualmente nei primi posti della classifica, quale secondo lei è la più completa per resistere fino alla fine del campionato? Ma non è semplicissimo da individuare, anche perché insomma tutte queste squadre, quindi Lazio, Udinese, Napoli, lo stesso Genova, ormai sono lì, cioè siamo all'undicesima giornata, non è più un, come sembrava dopo 2, 3, 4 che si può dire un anno c'era il Pescara in testa alla classifica dopo 2 giornate, ma insomma una volta, se non ricordo male, l'Empoli. Dopo 11 giornate è già un tantinello diverso. Io tra tutte queste, se devo sceglierne una, appunto sul Napoli, però credo che anche l'Udinese abbia un'eccellente attrezzatura tecnica e tattica per durare. Paolo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Io sono un tifoso dell'Inter. Volevo fare prima una considerazione generale. Questo fine settimana ho visto le 3 partite della Roma, dell'Inter e del Milan. Devo dire che deve dire qualcosa che ci ripasserà più tardi. Era interessante l'inizio. Ripeschiamo Paolo, chiedo appello al centralino, grazie. Da Treviso Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei ha appena citato i 3 punti, che da quando ci sono i 3 punti è migliorato lo spettacolo, sono senz'altro d'accordo. No, non ho detto un'altra cosa. Non ho detto questo comunque io. Sì, beh, sì, comunque è aumentato l'equilibrio, diciamo così, a livello classifica. Contrario, mi scusi Gianni, poi andiamo avanti. Contrario che si è aumentato l'equilibrio, cioè quest'anno, che infatti è eccezionale, con i 3 punti per vittoria, le classifiche hanno scavato abissi in tutti gli anni precedenti. Allora, io dico che con i 3 punti è aumentata anche la responsabilità degli arbitri, perché maggiore è l'incidenza degli errori arbitrali. Prendiamo ad esempio l'errore dell'arbitro di Inter-Udinese, che se ne dica, giocare in 10, giocare in 11 non è la stessa cosa. Se l'arbitro avesse espulso Cordoba, come meritava di essere espulso, l'Udinese avrebbe avuto anche la teorica possibilità di vincere. Quindi con i 3 punti in palio, la differenza tra vincere e perdere nello scontro diretto sono 6 punti, non più 3. Quindi diciamo che l'errore di ieri è stato un errore clamoroso. L'arbitro merita di essere sospeso non per una giornata, ma per 5-6 giornate, magari mandarlo anche a rifare il corso arbitri. Grazie. È stato un crescendo rossiniano quello di questo ascoltatore. Io però penso che una parte di verità anche nella sanzione ci possa essere. Immagino che mi auguro che Collina prenderà provvedimenti severi nei confronti dell'arbitro di San Siro, nei confronti dell'arbitro di Verona, perché l'ascoltatore ha detto che è indubbio che giocare in 10 contro 11 sarebbe cambiato, magari l'Udinese non avrebbe vinto, ma forse o senza forse l'assalto finale dell'Inter sarebbe stato un pochino più problematico. Ora questi discorsi si possono fare ad ogni partita, per ogni decisione arbitrale e per ogni tipo di valutazione arbitrale su qualsiasi episodio, ma uno come quello di ieri non è diversamente valutabile che con un cartellino rosso. L'Inter avrebbe dovuto giocare gli ultimi minuti senza Cordoba. La Juventus, credo che il fallo di Sissoko risalga addirittura al primo tempo. Sono certo che la Juventus, con un arbitro degno di questo nome, avrebbe giocato senza Sissoko per l'intero secondo tempo più il finale del primo. Beh, insomma, cambia la musica, no? Io credo. Credo anche che, dicevo, che Collina prenderà provvedimenti sia nei confronti di Banti, che era l'arbitro di Verona, sia nei confronti dell'arbitro Morganti di San Siro, che tra l'altro ha fama di grande severità, alla faccia della severità, se consente un'entrata omicida come quella di Cordoba, limitandosi al giallo. Credo che se quelli di Cordoba e quelli di Sissoko erano falli, secondo me, da 3 giornate, mi auguro che 3 giornate tocchino sia a Banti che a Morganti, perché credo che sarebbe abbastanza giusto chiuderla così, con una scappatoia per Banti, che a quest'ora avrà già deciso, perché deve decidere nel rapporto di ieri sera. Banti potrebbe anche aver detto di non aver visto l'episodio, e quindi in questo caso a Sissoko toccherebbero delle giornate di squalifica da prova televisiva. Poi ci sarebbe a quel punto da chiamare in causa le diottrie del quarto uomo, dell'assistente e di tutti i giudici di gara, sotto i cui occhi, se Banti non avesse visto, è avvenuto, cioè è stato tirato questo calcio da dietro da rissa da strapaese, insomma, e non da Serie A. Da Verona, Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno dottore. Volevo fare una domanda, continuando, lei in parte risposto, sto ascoltando. Proprio su questi interventi così fallosi, è una domanda molto ingenua, ecco, mi perdoni, ma secondo lei, dovesse darmi un parere, perché si continuano a vedere degli interventi, tutte le domeniche ci sono interventi così pesanti e appunto sembra che mediamente, diciamo, la classe arbitrale non li sanzioni adeguatamente? Cioè, che cos'è? Non li vedono né loro né i collaboratori, li vedono e li giudicano da poco. Cioè, perché c'è questa ritrosia a mandare fuori e espellere un giocatore direttamente? Non lo so. Grazie a lei, non me lo so spiegare. Stamattina hanno fatto questa domanda a Collina. Collina ha riconosciuto che nelle ultime partite gli arbitri hanno tollerato eccessivamente il gioco duro, leggo dalla notizia riportata dall'agenzia. Ha annunciato che raccomanderà maggior severità. Però ha poi detto: mi piacerebbe che si parlasse solo di errori senza pensare che ci debba essere dietro qualcosa. Io credo che la famosa vecchia antica sudditanza, o quello che, o comunque la si voglia chiamare, dietro in parte almeno ci sia, perché la percentuale di falli gravi da espulsione perdonati in queste ultime giornate tra le grandi squadre e il resto del campionato è nettamente sbilanciato a vantaggio delle grandi squadre. Quindi ho l'impressione che ne dica Collina, giorno dopo giorno diventi sempre più difficile credere alla casualità, al margine di errore, anziché, non dico mica ad un disegno, ma anziché ad un trattamento privilegiato per qualcuno. Da Palermo ha chiamato Paolo, buongiorno. Grazie, quale piacere, buona settimana. Grazie a lei. Io, se mi permette, vorrei parlare un po' del mio Palermo, perché vorrei che lei desse un schema di lettura a questa squadra, che è allenatori, fior di allenatori, ma non riesce mai a dare ad impegnarsi, non ha proprio un proprio ordine di gioco, e quindi vorrei che lei mi facesse un po' capire cos'è che non funziona nella mia squadra e poi una chiave di lettura in vista della partita contro lo Special One di sabato prossimo. L'ascolto per telefonino perché purtroppo non ho la radio. Ho sentito, Paolo, che c'è qualche problema di comunicazione, ma guardi, io la devo deludere perché non sinceramente non sono in grado di se non l'hanno capito fior di allenatori. E sta facendo fatica a capirlo ultimamente anche Ballardini, io non ho idea sinceramente, credo magari, cioè posso pensare che qualche giocatore sia un po' sopravvalutato, e su questo credo che i dubbi siano pochi. Dopodiché dipende sempre dalle aspettative, no? da quello che uno si attende da una squadra. Il Palermo ha vissuto un momento di esaltazione qualche stagione fa, ma non era quella la sua vera dimensione. La sua vera dimensione è questa, o un pochino meglio di questa, ma insomma, se guardiamo le otto squadre che sono davanti e le abbiamo elencate prima, secondo me sono tutte tecnicamente più attrezzate del Palermo per stare sopra, e dunque vede che, calcolando che c'è la Roma in fondo e che sarebbe un'altra di quelle, io credo che il Palermo sia la tipica squadra della centro classifica che non deve rischiare niente in retrovia, ma che può togliersi dalla testa comunque di finire tra le prime quattro, proprio per un discorso normale di organico. Da Aosta, Pier Giorgio, buongiorno. Buongiorno e complimenti a tutti. Mi riferisco velocissimamente a quell'intervento sul fuorigioco che è stato riabilitato e cassato dalla Moviola, di cui si è parlato un po' di tempo fa. Volevo semplicemente fare una forse divertente considerazione. In un libro che aveva che di scientifico, ho letto: gli arbitri non sono galline, nel senso che soltanto le galline riescono ad avere una visione a 180 gradi, per cui si affermava in quel libro, peraltro ripeto non voglio fare pubblicità per cui non dico di cosa si tratta, ma aveva un carattere estremamente scientifico, che è impossibile per un arbitro di calcio essere sicuro al 100% di un fuorigioco semplicemente perché non ha la possibilità fisiologica di guardare a 180 gradi. Perdoniamoli ogni tanto questi arbitri. Grazie. Grazie a lei, infatti sono gli assistenti, non sono gli arbitri. Perdoniamoli, l'ho detto prima, i loro errori sono, lei ricorda, in parte anche fisiologici, poi insomma questo libro estremizzava un po' il concetto, ma ci sta come valutazione, come riflessione. Gli assistenti quando sbagliano di centimetri, come nel caso di ieri, insomma fino al mezzo metro, che hanno tutte le attenuanti del caso. quando un arbitro non sanziona scorrettezze come quelle invece che si sono viste ieri, è gravissimo. Luigi da Milano scrive: solo lei poteva paragonare il calcetto di Sissoko all'intervento da codice penale di Cordoba. Non sono due interventi della stessa gravità, sono due interventi da cartellino rosso e tre giornate tutte e due. Uno per condotta gravemente scorretta, che è quello di Sissoko, perché è un fallo di reazione, e l'altro per un'entrata di pericolosità estrema che attenta all'incolumità dell'avversario. Mi creda, tre giornate ciascuno con degli arbitri che facciano gli arbitri. Fioccano anche i messaggi, le mail. La non espulsione di Cordoba, scrive Giulio Torelli, per il fallo su Ingler è più grave di 10 rigori non visti. L'arbitro Morganti era a 5 metri, quella non è una decisione, quella è una non decisione, è una situazione a mio avviso scandalosa, e ha perfettamente ragione Giulio Torelli. È la seconda volta che all'Inter in una partita casalinga viene fatto uno sconto abissale su espulsioni. La volta precedente era toccato a Maicon, stavolta a Cordoba. Ripasso di storia con Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 novembre 1991. A Chicago, Martina Navratilova batte Monica Seles in finale e conquista il 157esimo torneo professionistico di singolare della sua carriera. La campionessa statunitense di origine ceca eguaglia così il record di Chris Evert, sua agguerrita rivale in tante battaglie. Ma la Navratilova andrà oltre. Prima di ritirarsi, raggiungerà quota 167 tornei vinti. Si tratta tuttora del primato assoluto nell'era Open. Torniamo con Daniele, chiamato da Parma. Buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Un'osservazione a voi giornalisti, ma probabilmente non a lei nel caso specifico. Dunque, non meno di un mese fa si parlava di una Juventus ridimensionata, di una Juventus che doveva probabilmente cambiare allenatore, Ranieri un incompetente sotto tutti i punti di vista. Adesso tutti elogiano la Juventus dopo 6 vittorie consecutive. Probabilmente perché siamo in Italia. Però probabilmente anche perché ci sono delle esagerazioni da parte del giornalismo. Lei cosa ne pensa? Grazie. Lo penso assolutamente, sono completamente d'accordo con lei. Poi intendiamoci, non è che la situazione di allora non andasse raccontata anche con tinte un po' fosche, perché sembrava in quel momento davvero, ma sembrava alla stessa Juventus, società, squadra e guida tecnica, che ci fosse qualcosa di troppo che non tornava. Poi ci sono sempre gli eccessi, evidentemente, e ieri per esempio Ranieri se l'è presa duramente con, come si dice in questi casi, un quotidiano sportivo torinese, e con cui la polemica ormai è irreversibile, perché questo era stato il giornale che aveva trattato Ranieri in quei frangenti, lo ricordavano i giorni scorsi già, no? Non tanto e non solo come un allenatore da sostituire, ma come uno da interdire praticamente, no? Visti gli aggettivi. E adesso invece ovviamente stanno cercando faticosamente di recuperare, anche se semplicissima non sembra come operazione. Da Roma, Stefano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sono di Roma, so. Io ho visto l'intervista a Mourinho che hanno fatto ieri, e secondo me ha fatto bene la comportazione. Perché sì, magari l'apparenza può sembrare da maleducato, però fare una domanda mi sembra irrispettosa nei suoi confronti. Infatti, a pagare tempo, Mourinho rispetto a Mancini sta molto meglio come classifica, perché l'ha preso da giugno la squadra. In più ha cambiato modulo, in più ha avuto l'infortunio della difesa, quindi cioè pizzicarli in quel modo mi sembra poco professionale da parte dei giornalisti. Questa è una domanda provocatoria, fatta deliberatamente. Io a posto suo andrei manco più a parlare con i giornalisti, cioè o c'è rispetto verso uno che forse ne fa qualcosa di più, secondo me, anche perché consideri che se Mourinho comincia a ingranare, già sta così, comincia a ingranare, penso non c'è più partite. Cioè, Stefano, secondo me lei fa un po' di confusione tra due argomenti, cioè uno è la valutazione su come sta andando l'Inter, l'altro è un problema di comportamenti. Io su come sta giocando l'Inter e su tutto il resto mantengo le mie perplessità. Sulla vicenda sulla vicenda Mourinho, Zenga, ieri ci sono stati malumori televisivi anche di Reia, molto più contenuti, molto più sobri, ma insomma anche di Reia, anche di Delio Rossi. Io da sempre sono dalla parte degli allenatori, credo che questi tecnici, mi pare che sono tenuti per contratto, si continua a dire, a presentarsi ai microfoni per commentare a caldo il dopo partita, e poi sono chiamati a commentare tutto meno che il dopo partita. La mia opinione, avendo anche in passato sfiorato prestazioni professionali di quel genere, la mia opinione è favorevole agli allenatori che perdono le staffe e che magari un giorno o l'altro decidessero appunto di ridiscuterlo questo famoso contratto, mettendoci in mezzo a tutte le eventuali penali che il contratto stesso comporta, e ci sarebbe, ripeto, molto ma molto da discutere. In ogni caso non si capisce perché debbano essere precettati per quello che si chiama dopo partita e che invece le televisioni tendono a far diventare una succursale del bagaglino. Questo a parer mio è, dal punto di vista loro, un argomento che potrebbero un giorno decidersi ad affrontare anche come categoria. Dato che, come si dice in questi casi, la domanda l'aspettavo e anzi ha tardato 53 minuti rispetto al previsto, mercoledì a questo argomento e a tutto quello che è collegato dedicheremo una puntata intera, un appuntamento che stiamo già organizzando. Con personaggi qualificati a esprimersi appunto su questa materia. Da Torino, Davide, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io ho il rispetto massimo per tutti, però mi riallaccio a come stamattina Tutto Sport, perché questo è il nome del giornale che ha la polemica in corso con Ranieri, ha risposto alle controrisposte di Ranieri, dicendogli in buona sostanza che quando... non voglio banalizzare, ma per sintetizzare, che quando si guadagnano determinate cifre si è pagati anche per sentire delle critiche. Sono d'accordo con lei che il bagaglino e le CS poi sono un'altra cosa, però sia per quanto riguarda gli allenatori che per quanto riguarda gli arbitri, io do per scontato che quando si prendono anche determinate remunerazioni è giusto anche rispondere di quello che si fa. Stamattina Collina ha difeso a spada tratta, a prescindere, tutto l'operato arbitrale. Io non penso che ci siano sudditanze psicologiche, però degli errori grossolani, errori, cioè cose di persone che forse non sono molto capaci a fare quello che dovrebbero fare, indubbiamente sì. Non credo che sia utile il movimento, facendo il muro, facendo allora me ne vado, allora sbagliano tutti, quindi tutti assolti. Non aiuta a migliorare le prestazioni di nessuno. No, questo no, però nemmeno allestire i teatrini che in teoria dovrebbero parlare di calcio, invece parlano di tutt'altro con rarissime eccezioni, nemmeno questo, mi creda, aiuta granché il movimento. Da Alessandria, Agostino, buongiorno. Buongiorno, dica. Complimenti. Volevo dirle questo, ieri ho visto la partita dell'Inter e c'era l'arbitro lì a mezzo metro e Coldo andava espulso e da prendere almeno 2 o 3 giornate. E fin qua siamo arrivati. E se venisse diciamo squalificato Sisto, come penso, dovrebbe essere squalificato anche il difensore dell'Inter, che l'ha fatta molto molto più grave di Sisto, che perlomeno Sisto era stato anche abbracciato non energicamente, visto che c'era un fallo del giocatore del Chievo. E anche Gattuso, signor Garanzini, secondo il mio punto di vista, almeno doveva essere ammonito. Ascolto Di Gattuso abbiamo parlato la scorsa settimana, non possiamo andare avanti tutti i giorni rubricando, cioè pescando anche nell'archivio, abbia pazienza. Mi pare che per oggi possa bastare, ricominciamo domani magari da qualche altro angolo di visuale. Grazie a Pietro Bescapè in regia, a Flavio Suari in redazione, appuntamento per l'appunto a domani e Giornale Radio.